siccome non ho le leggi praticamente che sono più di voi, Mariana anche potrebbe essere una legge, ci sarei una frequentatrice Loretta anche. Ma no, non è bello il terzo corso. C'è scritto il mio. Ah, per la tesi. Anche io. Anche. Va bene. Allora, chi è che di voi era già al secondo corso? Tutti? No, c'era qualcuno che quindi ripeterò in breve quello che ho detto alla presentazione per chi non c'era. Allora, il nome di questo corso è ovviamente un ingannevole, come si può dire, come direttore. Se voi sperate di imparare da me come si fa un sito internet, sbagliate, non ve lo insegnerò. Questo è il corso di teoria, di teoria, di teoria, di teoria, di teoria, di teoria, di teoria, di teoria, di teoria, di teoria, di teoria, di teoria, di teoria, di teoria, di teoria, di teoria, di teoria, di comunicazione non è fuori luogo, si parlerà ovviamente. Però parleremo di comunicazione prevalentemente dal punto di vista delle competenze che deve avere il comunicatore o che già ha per conto suo. Il comunicatore vuol dire praticamente o ogni essere umano, la comunicazione è anche ogni essere umano, che è una comunicazione in tutto il mondo animale, praticamente anche quello vegetale. Però ovviamente la comunicazione umana è una comunicazione un po' particolare perché è una comunicazione basata su uno strumento specifico che è il linguaggio. Allora, quindi diciamo da un punto di vista tradizionale questo corso è un corso a metà tra la linguistica e la semiotica. La linguistica è la teoria che tenta di descrivere i dispositivi fondamentali con i quali funziona il linguaggio umano e la semiotica è una generalizzazione ulteriore della linguistica e tenta di trovare, se ce ne sono, delle leggi o delle regole, dei meccanismi generali di funzionamento con i quali funzioni ogni sistema di segni, non solo quelli di lingua. Non registro, perché non registro? Perché mi sono dimenticato a casa, non registro. Io registro se vuoi. Tu registri? Sì. Addirittura con un microfono. No, non va bene. Professionale. Ah, sta. La prende? La prende. È direzionale o ambientale? È un piacere ambientale. Va bene. Cosa dici, no? No. Sì, guarda. Posso anche parlare qua, insomma, sì, questo volevo. Certo, cammina, fai quella che vuoi. Perché se non cammino, intanto mi siedo, ma è diretta. Allora, mentre la semiotica è quella teoria, quell'insieme di teorie, quel campo disciplinare, quella disciplina che tenta di studiare se ci sono delle leggi di funzionamento generale di ogni sistema di segni, non solo quello linguistico, anche dei segni, per esempio anche si può fare una semiotica dei segnali stradali. I segnali stradali sono un sistema di comunicazione per segni, un po' diverso, molto più semplice che non il linguaggio, basato su un principio diverso da quello del linguaggio che vedremo, ma insomma, diciamo, quindi a metà tra la linguistica e la semiotica. Allora voi dite, quindi che quelli di voi che hanno fatto il CN di Brera, dice, ma noi abbiamo già un corso di semiotica, l'abbiamo fatto al CN, tra l'altro il professor Perretta ci ha carabinato i coglioni per un anno e mezzo, adesso sappiamo tutto della semiotica. Io sono contento che chi di voi abbia fatto il corso di Perretta, che sono convinto che gli altri, però primo l'hanno messo quest'anno solo, quindi anche quelli che hanno fatto 3 anni fa, il secondo non tutti voi venite dal biennio, dal triennio di Brera, quindi io purtroppo sono costretto a, sia pure in breve, in sintesi, a partire dal darvi alcune indicazioni generali su questi argomenti. Adesso voi fate, voi non so, soldati e compietate, su di te, va bene, però mi dite questo, voi mi dite, a lei però le hanno detto di insegnare comunicazione multimediale, la comunicazione multimediale è quella che si fa prevalentemente su internet, si chiama multimediale perché ci sono tanti media diversi, non c'è solo la parola scritta, ma ci sono tante altre cose, c'è la parola parlata, ci sono le immagini fisse, ci sono le immagini in movimento, ci sono i suoni, c'è la musica. Volendo si potrebbero aggiungere altre cose, ci sono altri effetti comunicativi ancora, dice perché non ci parla di questo? Io ovviamente parlerò anche di questo sempre dal punto di vista generale, teorico, dal punto di vista dei principi, dei dispositivi che sono all'opera in questi sistemi comunicativi, però infatti una delle parti di approfondimento del corso, cioè dopo questa prima parte generale su alcuni concetti fondamentali di linguistica semiotica, passerò ad affrontare un tema che è al cuore proprio della comunicazione multimediale, e cioè il rapporto tra la parola e l'immagine. Il rapporto tra la parola e l'immagine è al centro dei sistemi comunicativi da ben prima del computer, è al centro dei sistemi comunicativi da quando, nella seconda metà del XIX secolo, si scopre un modo rapido ed economico di stampare le fotografie sulla carta, e quindi entrano delle fotografie sui giornali. Il primo, storicamente, il primo vero strumento di comunicazione multimediale è stato il rotocalco, cioè la rivista su carta più o meno patinata, più o meno lucida, che porta insieme, c'è anche la tecnica di Talbot, certo. Ma diciamo, da un punto di vista semiotico, quello è il momento in cui tutto quello che viene dopo, il cinema e poi la televisione, eccetera, eccetera, in realtà sono degli eredi di quella prima. Prima dell'invenzione del rotocalco, la parola è l'immagine. Ovviamente c'erano già, ma interagivano poco perché facevano parte di mezzi totalmente diversi. Quando nel 1540 e rotti, non mi ricordo, Giorgio Vasari scrive La vita dei più scientifici, scultori, eccetera, fa un libro, in cui c'è una sequela di parole stampate, ma non c'è una figura. Non c'è una immagine, perché l'unica tecnica disponibile ancora in quel periodo per trasferire automaticamente immagini su carta è la xilografia o la litografia, quindi incisione da matrici di legno o di pietra, con cui è difficile riprodurre anche in maniera un po' rozza, che ne so, le Tre Grazie di Raffaello. Cioè fate una litografia con quelle tecniche da Tre Grazie di Raffaello, vengono tre tipe un po' deformi, che potrebbero sembrare tanto streghe quanto grazie, Michelangelo diceva che non sarebbero sembrate comunque, perché secondo Michelangelo Raffaello non conosceva l'anatomia, quindi le Tre Grazie sono una cosa, e era una cosa abominevole. Michelangelo poi si incazzò quando le vide appese nello studio di Papa Giulio II, però insomma. Se voi facevate una litografia di un quadro così, o di un Rubens, anche di una cosa qualunque di quel secolo e secolo, era quello che era. Quando arriva la fotografia a lungo, non arriva nelle pagine dei giornali, perché non c'è modo di fare una rivista, non c'è il loro supporto, sulla carta fotografica, prima sul terreno fisico e poi sulla carta fotografica. Quando si trova finalmente un modo per trasferire, certo non con risultati eccelsi all'inizio, ma accettabili dal punto di vista dello sguardo, su una pagina stampata una immagine, ecco che i giornali, che sino a quel periodo sono stati delle sequenze di piombo e colonne di piombo e basta, quindi parole scritte, cominciano a poter mettere. E da quel momento la dialettica tra immagine e parola, che c'è sempre stata nella comunicazione umana, ma è sempre stata una dialettica intermediale, cioè tra un mezzo di comunicazione e l'altro, diventa intramediale, perché all'interno di uno stesso mezzo di comunicazione cominciano a presentarsi simultaneamente e quindi interagiscono le une con le altre. Ciononostante, da quello che vi dirò già oggi e la volta prossima, ci sono alcune sostanziali differenze nei dispositivi semiotici della parola e dell'immagine che fanno sì che non sia così agevole, così semplice, così facile comprendere il rapporto tra la funzione comunicativa dell'una e la funzione comunicativa dell'altra, e anche se da un certo punto di vista l'avvento, diciamo l'ingresso dell'immagine nei sistemi, nei metodi di comunicazione più diffusi ha dato luogo all'illusione che l'uomo potesse fare a meno della parola, apro una parentesi, di questa illusione, da questa illusione non è andato esente neppure una persona molto, molto intelligente, alla quale dobbiamo molto per altre cose, che è Marshall McLuhan. McLuhan stesso, che un po' poi è il fondatore della teoria della comunicazione o della teoria dei media o della mediologia o della sociologia dei media, come vogliamo chiamarla, per qualche momento della sua vita ha pensato, e lo ha scritto anche, ci sono alcuni passaggi di Understanding Media che lo provano, ha addirittura pensato che in qualche maniera, lui dice la comunicazione elettrica, lui dice in genere, insomma l'ambiente elettrico della comunicazione potesse creare tra gli esseri umani, lui dice, siccome era cattolico, una situazione di comunicazione pentecostale, dice, no? Perché dice pentecostale, il peggio della Pentecoste. Chi è che non è cattolico qua di origine? Tu che sei vabbè, siamo tu che sei molto, io sono ortodosso, tu dovrebbe essere anche lui, ma la Pentecoste dovreste ben sapere cos'è pure voi, perché è un sacrificio. Che cos'è la Pentecoste? Io non lo so, che cos'è, che lingua è italiana, perché sei latino, Pentecoste, se Pentecoste è greco, pentacoste è una roba così, pentagram, penta è cibo, penta lo so, Pentecoste, la Pentecoste, chi è che sa cos'è la Pentecoste? Allora, la Pentecoste è un evento che si racconta negli Atti degli Apostoli, che è il penultimo libro della Bibbia. Qual è l'ultimo libro della Bibbia? Qualcuno lo sa, il penultimo degli Atti degli Apostoli. Quindi, il Nuovo Testamento è fatto di pochi libri, i quattro Vangeli, gli Atti degli Apostoli e l'Apocalisse, perché le lettere di San Paolo e degli altri non sono comprese nel Vangelo. Questo è il Nuovo Testamento, cioè la parte nuova della Bibbia. Allora, negli Atti degli Apostoli si narra che, adesso non mi chiedete, credo, cioè per l'oretta siano 40 giorni, 40 giorni dopo la resurrezione di Cristo, la Madonna e gli Apostoli, la mamma di Cristo e gli Apostoli fanno le cose che fate anche voi quando finite la scuola, fa una cena sociale, chiamano la cena sociale della vita, dice il principale ci ha lasciato, se n'è andato, ma noi che siamo gli impiegati o la mamma del titolare ci troviamo insieme, facciamo un po' di mangiare e di bere, ci vediamo alla pizzeria da Ibrahim. E lì, stanno lì, a un certo punto che cosa succede? Ci sono i quadri, voi vedete i quadri, quello che si chiama Pentecoste, tutti si bloccano lì e dice, dal botto di su di loro discende lo Spirito Santo. Nella iconografia cristiana, cattolica poi, perché i cattolici sono quelli che più di altri hanno sviluppato questo settore dell'arte sacra, l'alternativa, si vede la Madonna e i due apostoli insieme, si vede in alto il simbolo dello Spirito Santo che è una colomba, la Colombo, lo Spirito Santo, e credono sulla testa degli apostoli della Madonna delle linguette di fuoco. Dice una che è, però, linguette di fuoco. Quello che non è espresso nel quadro, ma che è scritto nella cosa, è un evento però particolare, perché dice, ma che cosa succede? Succede che dice, e una volta, dice l'anonimo estensore degli Atti degli Apostoli, una volta che lo Spirito Santo fu disceso su di loro, essi, senza averle mai conosciute prima, intendevano tutte le lingue del mondo. La visita dello Spirito Santo rovescia il processo che era successo all'inizio della Bibbia. Nella Bibbia si narra che Adamo, Eva, i loro discendenti per un po' parlarono un'unica lingua, erano anche così pochi, che credo bene, che parlavano per una sola lingua. Perché ha chiesto, scusi, perché chiesto chi non è cattolico? Cosa c'è? Perché la Pentecoste è una roba che in genere si impara quando si va al catechismo dei cattolici. Io non so bene se voi fate un catechismo. Sì, io non conosco neanche l'icona di quello. Ah, perché te sei evidentemente, perché sei ateo, sei nato in una famiglia, sei nato sotto il regime comunista. Io sono battezzato. Comunque se vado a 5 anni qui. Anche io 5 anni fa, però non è un problema, no, però le icone, sì, l'arte, anche se è nostra, conosco. Lo so, però mi sa che adesso non io la conosco meno, mi sa che nella tradizione iconica russa o comunque slava, la Pentecoste non ha un ruolo così centrale come ce l'ha in quella cattolica. No, proprio mi sembra che sicuramente se tu chiedi a un pope, certo, chiaramente lo sa, però ci insistono meno, questo è quello che voglio dire, per questo che ho chiesto cattolici, non è che voglio discriminare chi non è cattolico. No, perché mi interessava pensavo che io dovrei saperlo come un ortodosso. Come ortodosso. Cioè sei un po' più giustificato di loro. Loro sono tutta una massa di, come dire, lei no, perché lei dice chi è una cattolica, lei altro, subito la mano. L'unica nata. Ma perché non sei neanche battezzata, tu, no, giusto? Sicuramente si chiama, se lo so, si chiama. Sì, non lo so com'è il ruolo. Nelle vostre lingue non lo so come. Comunque se vai, che secondo vai a casa ti cerchi Pentecoste e vedi come si raggiunge. Perché è in greco proprio. Deriva dal greco, il termine è greco, adesso io non so bene però perché cosa. Sì, perché dal greco Pentecoste. Non so cosa è il 5, però. O forse il 5 non c'è la parola. Allora, comunque, il punto era che... Concetto interessante. Sì, dico, detto è interessante perché... E voglio metterlo in relazione con un altro episodio della Bibbia, quello della Torre di Babele, no? Sì. Nella Bibbia, se molti di prima, si racconta che Adamo, Eva e la loro discendenza per un po' parlavano un'unica lingua, e io dicevo, grazie al cazzo, perché erano così pochi che non è che potevano parlare più insomma lingua. E a un certo punto però la civiltà umana si sviluppa in modo tale che e questi decidono di fare questa torre, di erigere questa torre che nelle intenzioni orgogliose e un po' tracotanti, potremmo dire, di questo gigante Nembros, che è quello che progetta di costruire l'Alto di Babele, avrebbe dovuto raggiungere il cielo. Allora lì è quel punto che Dio, il Dio dei cristiani, si incazza un po', e dice, oh, che siete matti, se no arrivo io. Gli manda il solito fulmine, che incenerisce questa torre, la gente crepa, guarda. E lì che cosa accade però? Che dopo il disastro di questa torre enorme, che ammazza tanta gente, le storpiate, insomma, tipo una sorta di 11 settembre, ante litteram, 2001, ante litteram, solo che questa volta nel ruolo dello stronzo non c'è Bin Laden, ma un personaggio un po' più importante, che cosa succede? Come effetto collaterale, la gente si sveglia, dice, che botta, si sveglia, e io non capisco più quello che dici, e parlano, ognuno parla una lingua diversa. Quindi là, questo è il mito, è uno dei miti della, diciamo, questo è un modo di vedere, di giudicare la diversità delle lingue umane, viene considerata come una punizione divina per aver tentato di costruire, per aver tentato di fare questa cosa blasfema, di arrivare fino a Dio, di uguagliare Dio, eccetera. Era un po' come Prometeo, insomma, questo mito della Torre di Babele ha alcune analogie col mito di Prometeo, alcune analogie, però lì non c'è la nella mitologia greca c'è il mito dell'età dell'oro, che è una specie di paradiso terrestre in cui gli uomini camminavano sulla terra con gli dèi e quindi potevano parlare la stessa lingua, mentre poi dopo non si capisce. Adesso, ma la cosa fondamentale è, allora, la Pentecoste, alla fine della Bibbia, inverte, sia pure per un periodo di tempo limitato e per un target molto, diciamo, particolare, molto scelto, quindi sono gli apostoli e la mamma del capo della non molto originale, squadra, non molto originale, non molto originale, sono d'accordo, eternità, non molto originale. Comunque, sia pure solo per questo piccolo gruppo di privilegiati, viene invertito il trend che è creato da tutta la storia dell'umanità. Ecco perché McLuhan, che era cattolico in un paese a maggioranza protestante, quindi era un cattolico interessante, i cattolici sono pericolosi solo quando sono maggioranza. Se sono maggioranza, diffidate, perché se sono minoranza possono anche essere brava gente, perché siccome gli danno in testa a tutti, magari. E McLuhan era figlio di un pastore protestante convertito al cattolicesimo a 18 anni, quindi insomma, ciononostante rimane comunque uno, insomma, cristiano, quindi un po' di cose, come dire, un po' di cose riprovevoli per chi non è propriamente cristiano le ha dette. Ma comunque è comprensibile che usi il termine pentecostale per indicare che cosa voleva dire McLuhan, che in qualche modo, diciamo, i metodi di comunicazione elettrica permetterebbero, secondo lui, o potrebbero permettere di superare le barriere linguistiche, cioè, e in maniera ancora più radicale, permetterebbero di trovare dei mezzi, degli strumenti di comunicazione differenti da quelli linguistici, a prescindere dal fatto che poi si parlano la stessa lingua. Questo io lo trovo un punto di vista pericoloso e poco, diciamo, fondato in primo luogo, pericoloso in secondo luogo, perché non tiene conto, come dire, perché propone un tipo di antropologia totalmente astratta. Non è possibile costruire una antropologia che prescinda dal carattere linguistico degli esseri umani. Il carattere linguistico degli esseri umani è intrinseco e ineliminabile dalla antropologia. Uno può favoreggiare tutto quello che vuole, ma diciamo l'idea che una comunicazione possa fare a meno del linguaggio. Allora, questo è per spiegarvi perché il nesso tra parola e immagine, soprattutto nell'epoca dei mass media, cioè della comunicazione di massa, o nella nuova fase che stiamo conoscendo adesso, che è quella della comunicazione digitale, è ancora un tema delicato, complicato, difficile da capire, ma ovviamente molto fecondo se uno volesse. Ripeto, poi al di là dell'uso specifico che si vuole fare di tutte queste, uno poi può usare tutto quello che, tutti gli studi sulla comunicazione per infinocchiare il prossimo e per raccontargli una serie di palle, attività nella quale eccellono, per esempio, quasi tutti coloro che sono di marketing, che anche con le migliori intenzioni del mondo, però il loro scopo è quello di infilarcelo sempre in quel posto, nel senso che ci vogliono convincere a comprare delle cose che magari altrimenti non compreremmo, o invece può essere utilizzato però invece con delle finalità diverse, per esempio possono essere utilizzate queste considerazioni per sviluppare la comunicazione orizzontale e la cooperazione tra esseri umani in modo da migliorare non solo i loro strumenti di comunicazione, ma anche per raggiungere obiettivi, come vi dicevo prima, non basta mettere insieme 15 persone e neanche 100 in partenza, bisogna poi che queste persone si parlino tra loro e che attraverso il linguaggio si scopra se c'è qualcosa che li accomuna, che cosa insieme questi scelgono che li accomuni e quindi come scelgono poi di agire. Allora, questo è il primo argomento specifico che affronterò dopo la natura della cosa. Il secondo argomento che affronterò è quello del rapporto tra comunicazione e sovversione. O il primo stadio della sovversione, che è la ribellione. Allora, nonostante quello che vi possono dire i mezzi di comunicazione, tipo le televisioni, il TG3, tanto quanto Canale 5, da questo punto di vista non cambia nulla, o i giornali, l'Unità come Libero, e anche il Manifesto ormai tutto sommato. La sovversione non è sovvertire, rovesciare, portare alla luce ciò che sta sepolto, farlo vedere, sovvertere. Vertere è un verbo latino che vuol dire girare, sub vuol dire sotto, sovversione è subvertere, portare sopra quello che sta sotto, portare in luce ciò che sta nascosto. La sovversione non è il progetto diabolico, meschino e cattivo di alcune persone chiamate terroristi o chiamate agitatori politici o chiamate... È un fenomeno quasi ineliminabile da ogni società. Non c'è società che non abbia conosciuto i suoi episodi più o meno lunghi, più o meno di sovversione. Le società basate sullo schiavismo, secondo voi gli schiavi stanno bene nella società schiavista? Però dici, ma però cazzo, ci sono, gli danno da mangiare, non si devono occupare di nulla, cioè, gli danno da mangiare quando gli va bene, cioè comunque sia, il fatto è che ti dà da mangiare se il tuo padrone c'ha voglia quel giorno, o se fa il ragionamento che gli conviene darti da mangiare in modo che tu abbia la forza per fare tutti i lavori che devi fare. Perché se ti capita un padrone rincoglionito o un padrone che gli girano i 5 minuti, eccetera, ti può pure lasciare senza, come dire, mangiare. Bene, non c'è società basata sullo schiavismo che non abbia conosciuto uno o più momenti di ribellione. Non ce n'è. In genere la storia ufficiale ha sempre fatto di tutto per nascondergli questi fenomeni e ce li ha ricordati soltanto quando gli schiavi sono stati sconfitti. Nelle storie ufficiali della romanità, della Roma classica, gli episodi di Catilina e di Spartaco sono stati tramandati, perché Catilina e Spartaco hanno fatto una brutta fine. Morti, ammazzati tutti e due, sterminati tutti i loro seguaci. Anche Catilina poi, siccome ebbe come avversario uno dei tromboni più terribili della tradizione, diciamo, latina e romana, però uno di quelli di cui ci sono rimaste più opere, perché era pure il loro eroico e grafomane oltre ogni dire, chiamato Marco Tullio Cicerone, non Giordano, Marco Tullio Cicerone, qui Cicerone ha scritto queste famose orazioni contro Catilina, c'è questo quadro, non mi ricordo più di chi è, dove si vede Cicerone in senato, avvolto nella sua toga, la purpurea, sguardo fiammeggiante, e Catilina seduto in alto da solo, allontanato da tutti come la peste, con lo sguardo torto da stronzo, e Cicerone che pronuncia la famosa espressiva «Os ue tandem Catilina abutere pazienza nostra, fino a quando Catilina abuserai la nostra pazienza». Catilina era ovviamente un leader politico dell'epoca che era contro l'oligarchia. L'oligarchia, diciamo, romana, di cui Cicerone invece era un esponente tra i più noti, e che aveva organizzato le plebi, la gente più povera di Roma, e anche alcuni limitati settori di schiavi. Poi qualche decennio dopo o prima, non mi ricordo, Spartaco invece fece una rivolta, era totalmente di schiavi, quindi ancora più pericolosa, eccetera, ma ci fu, insomma, c'è sempre stata, tutte le società schiaviste, anche gli egiziani, anche nell'Egitto faraonico c'è stata un episodio di schiavi, no? Non lo dico, sai? Soltanto che invece di fare una rivoluzione armata come Spartaco o come Caterina e sfidare le truppe del faraone, gli ebrei dell'epoca, sotto la guida di questo capo religioso chiamato Mosè, che probabilmente era un egiziano pure lui ed era semplicemente uno passato dalla parte dei poveri, passato dalla parte degli oppressi, cosa fanno gli ebrei? Non decidono che non vogliono scontrarsi, ma adoperano un'altra tattica che infatti oggi prende il nome proprio dal libro della Bibbia, l'Esodo. E va bene, ce ne andiamo. Ciao. Ti togliamo d'un botto la campata della forza lavoro, brutti stronzi di merda con cui costruite le vostre piramidi del cazzo, che ci possiate affogare dentro vivi e morti, che vi possono passare sulla testa, eccetera eccetera eccetera. Va detto ovviamente che Mosè aveva dalla sua un alleato potente, perché uno capace di mandare cavallette, sterminare i personaggi, cazzo, giocava un po' sporco, ci ha avuto culo, che è capitato in una epidemia di pestilenza, le cavalle, insomma, e gli dice, oh, me ne sono trovato io, quello lì lassù, che delle mani, e mi dà quelli. Comunque sia, dopo tutta questa cosa, non è che dice lì, sto lì e mi prendo il potere politico, no, piglio e me ne vado. Ciao, vi lascio qua. Certamente c'è sempre il Mar Rosso, gli è andata bene, pure che quel giorno c'era bassa marea sul Mar Rosso, quindi è riuscito a passare a piedi, anche lì poi ovviamente la cosa è stata raccontata diversamente a Cecil DeMille che ha fatto nel film, ha fatto... chi erano gli ebrei, se non gli schiavi? Degli egiziani, come oggi dovrebbero fare gli ebrei con i palestinesi, grosso modo, diciamo, perché sono corsi storici di ebrei ogni tanto. Ogni tanto non era mai successo nella storia, ma dopo la Shoah è invece successo che loro siano, diciamo, riusciti a in qualche maniera occupare il posto simmetrico da alcuni punti di vista, non da tutti i punti di vista, perché sarebbe sbagliato dire che tout court lo Stato di Israele è una... però insomma degli elementi razzisti li ha di fondo, non c'è dubbio, degli elementi razzisti li ha, quindi non è che sono come i nazisti, però insomma alcune scomponenti ci sono. Beh, un tempo però gli ebrei sono stati per tutta la diciamo, dai tempi con il faraone sino all'epoca di Hitler, quindi per un lungo diciamo periodo sono stati una specie di hanno funzionato a livello simbolico come una delle concretizzazioni di quella alterità, di quella differenza, di quella eterogeneità sulle quali qualunque società è basata, ma che spesso, non sempre, ma spesso una società decide di criminalizzare o di marginalizzare per poter meglio utilizzarla. È paradossale, ma l'antisemitismo in Europa per secoli e secoli non è altro che l'altra faccia, non è opposto, è l'altra faccia della medaglia del fatto che gli ebrei hanno dato, la cultura ebraica, il popolo ebraico ha dato in tutti quei secoli un contributo alla cultura e alla civiltà dell'Occidente superiore a quello di qualunque altra componente etnica, perché è indubbio, cioè se voi guardate l'elenco soprattutto a partire dal 700, ma anche nel mondo islamico, alcuni dei filosofi islamici, quando l'Islam ebbe una fiorente tradizione filosofica, quindi nella Spagna fondamentalmente o anche nel Medio Oriente fra il IX e il XII secolo, molti dei filosofi spagnoli, sono Maimonide è un ebreo, però dà contributi dentro quella e viene considerato nella storia della filosofia non solo occidentale ma anche là. Quindi l'esodo. Allora, la sovversione c'è sempre stata, la sovversione è una delle caratteristiche, è uno dei meccanismi di mutamento sociale più diffusi, più forti e più fondamentali. La società democratica è quella società nella quale, questa non è l'unica possibile definizione, ma per ciò di cui stiamo parlando adesso l'osservazione è pertinente, è quel tipo particolare di società che cerca più di altri di disinnescare i meccanismi della situazione. Le società autoritarie, le società che Michel Foucault chiamò disciplinari, le società che si assicurano l'assoggettamento del corpo del singolo tramite una violenza sociale esplicita, società autoritarie. Società autoritarie combattono la sovversione tentando di renderne impossibile l'espressione e combattendo fisicamente nel modo più feroce possibile i sintomi della sovversione, quindi massacrando i poveretti, no? Tenendoli artatamente in una situazione di soggezione visibile e diciamo chiara, non gliene frega niente al sovrano assolutista, tanto al faraone d'Egitto quanto al re d'Inghilterra, nascondere il carattere arbitrario del suo dominio. Io ho il diritto divino, Dio mi ha dato l'ordine naturale della società, è questo, la società è una piramide. Io sto in testa, voi state in fondo, io ho il diritto di calpestarmi, di fare che voglio per il vostro bene, tanto non avete altro, non potreste avere altro voi poveretti disgraziati che non siete nati col sangue blu, figli della dinastia dei Capetini, figli della dinastia, quindi vi schiaccio e se vi sollevate vi massacro. Facile entro certi limiti, semplice soprattutto. E questo non vuol dire che le società disciplinari non siano società terribilmente complicate, complesse pure loro, però diciamo il principio di funzionamento è relativamente semplice. Ma poi che cosa succede? Succede che dall'interno di queste vecchie società, attraverso un processo durato millenni, si sviluppano situazioni che forse avevano già cominciato a svilupparsi verso la fine del mondo antico, nel mondo ellenistico, ma poi tutta una serie di cose le avevano, e poi soprattutto l'avvento del cristianesimo e l'impero romano aveva cancellato tutta questa cosa, ma insomma diciamo l'esperienza culturale e forse anche sociale dei regni alessandrini nel terzo e secondo secolo avanti Cristo andrebbero studiate un po' meglio da questo punto di vista, e che diciamo i grandi schemi storici secondo dopo hanno marginalizzato quell'epoca per cui se ne parla, come invece forse l'impero romano non è stato esattamente l'erede, dal punto di vista culturale non era affatto l'erede diciamo della questione alessandrina. La società alessandrina è una società molto colta, che fa della cultura e della trasmissione della conoscenza e della libertà della conoscenza uno dei suoi cardini. I romani erano un popolo di ignoranti, zotici e barbari veramente da questo punto di vista, l'unica cosa che hanno fatto decente sono stati i temi giuridici, e per il resto pigliavano quello che hanno fatto i greci, però lo immiserivano spesso. Purtroppo noi non abbiamo le commedie di Menandro, abbiamo quelle di Plauto e di Terenzio, quindi non possiamo neanche fare bene il confronto, però probabilmente Terenzio e Plauto erano pallidi imitatori al confronto di Menandro. Le tragedie di Seneca fanno scompisciare dal ridere a confronto di quelle di Sofocle, di Eschilo e di Euripide, sono delle robette proprio trash, ecco, sì, possono essere valorizzate soltanto dall'attuale moda culturale di rivalutazione del trash, ma sono grandi gnoll, per intenso. Così è, però diciamo quindi lasciamo perdere l'Alessandrino. Fatto sta che quando arriva l'epoca moderna, dal punto di vista politico, il movimento, la tendenza dell'epoca moderna consiste esattamente nella messa in discussione, anche violenta, anche fisica, anche diretta, esattamente del modello assolutista del potere politico. Il modello che nello stesso secolo in cui avviene la prima rivoluzione democratica, cioè quella inglese, che mette fine per alcuni decenni, pochi decenni, alla monarchia, che poi dà luogo a una dittatura di uno che insomma, però tanto fanno fuori il re, tanto per cominciare, poi dopo il re torna. Beh, in quello stesso secolo un altro inglese, Thomas Hobbes, teorizza esattamente il modello politico assolutistico, dandogli una ragione storica, no? Dicendo nello stato di natura gli uomini sono tutti l'uno contro l'altro, bellum omnium contra omnes, che è una palla, che è una bugia bella e buona, ideologia questa proprio. E allora gli uomini, per evitare che ci sia il bellum omnium contra omnes, e soprattutto il più debole, per evitare che quello che ha le spalle più larghe delle mie, io per evitare che arriva lui, mi dà un colpo in testa e mi stende giù, e allora l'uomo aliena la propria libertà, prende uno e gli dice fai tu da capo, fai il sovrano e assicura che nessuno più si picchi, perché se arriva lui e approfitta che è più grosso di me e mi dà un cocco in testa, io gliene mando due più grossi di lui e gli faccio spaccare la testa a lui, o lo metto in galera per un tot di anni, perché se è più grosso va bene, anche lui è più mito, lui con la barbona lì, lo sguardo, non si direbbe mai che sarebbe, poi invece magari sei più stronzo, non lo so, però non è meglio lui. È un esempio, sì, diciamo, la scelta. No, è per dire che sennò poi mai pensa che abbia con lui, non so. Allora, che cos'è la rivoluzione borghese? La borghesia fa le rivoluzioni per i suoi interessi. Ma in realtà le rivoluzioni borghesi non le fa mica la borghesia, o non le fanno i borghesi ricchi, i borghesi che già nel XVII e XVIII secolo cominciano a manovrare dal punto di vista anche puramente economico del potere in mano. Le fanno i poveracci, le fanno gli artigiani rovinati, le fanno i passanti, le fanno i contadini, le campagne, i contadini senza terra, i contadini poveri, braccianti, o i contadini poverissimi che hanno un piccolo appezzamento, le fanno quei primi nuclei di operai che cominciano, sono tutti ex contadini, ex artigiani rovinati che cominciano a popolare le fabbriche. E le fanno come? Le fanno dicendo no, è assurda, come dire, fanno una critica pratica delle teorie di Hobbes, ma che cazzo, e anche di Rousseau da un certo punto di vista. Dice a noi, dice, tu dici che c'è stato un contratto sociale, ma io non l'ho mai fatto questo contratto sociale, dice l'artigiano, dice il panettiere del 13° arrondissement il 4 luglio 1789 quando prende la Bastiglia. Io non ho mai firmato questo contratto che il signor Hobbes e il signor Rousseau dicono che io ho firmato. Io voglio decidere io per me insieme con tutti gli altri, come dire, naturalmente, perché non ha senso che voi soltanto perché avete i soldi, soltanto perché siete preti, oppure soltanto perché siete nobili e quindi siete il vostro padre, i vostri nonni, dice, voi dovete contare quanto me. Quindi c'è una messa in discussione di questa, no? E le componenti più radicali di questi movimenti democratici, i levelers inglesi, si chiamano levelers, livellatori, level, put to the ground, i diggers, gli scavatori, quelli che scavavano, che cosa scavavano? Toglievano la terra di sotto i piedi ai potenti, cioè a quelli che erano sull'eredità, sono gli eredi dei riformatori religiosi di due secoli prima che si sono mobilitati dietro Thomas Müntzer in Inghilterra, dietro Johannes Huss in Boemia, e che erano insieme portatori di un rinnovamento religioso e di un rinnovamento sociale. San Francesco più Marx, che non c'era ancora, ma diciamo nella premonizione era. La rivoluzione l'hanno fatta le masse dei disertati, quelli che nella antica idea, e furono tutte sovversioni. La rivoluzione inglese del 1630, quella americana del 1749, quella inglese del 1789 sono state grandi movimenti di ribellione prima e di sovversione poi e di fondazione di ordini differenti. Ma la borghesia era già pronta, già mentre succedevano queste cose loro sapevano già come fare. Loro, non loro singolarmente, i pensatori politici che stavano a loro e quelli che hanno fatto le teorie poi che sono... E questa teoria era molto semplice. Non ha senso cercare di prevenire la sovversione picchiando un tot di persone, perché prima o poi picchiare la gente si incazza, ti rompe i coglioni, ti strappa il manganello di mano, te lo dà in testa a te. 10 volte ce la fai, ma l'11ª volta andrà così. Bisogna rendere impossibile la sovversione con altri mezzi, e noi abbiamo in mano, noi dicono i borghesi e i capitalisti, abbiamo l'arma più efficace per impedire la sovversione. Qual è quest'arma? È l'abbondanza dei beni. Noi abbiamo un sistema che ci consente di fornire, di dare alla gente tutto quello che vogliono, più o meno, tutto quello di cui hanno bisogno o credono di avere bisogno, e addirittura siamo così bravi, il nostro sistema è così ben congegnato e può ancora migliorare nel tempo e negli anni, da fare in modo da dargli queste cose, far sembrare che gliele regaliamo quasi, e invece fargliele pagare. Fargliele pagare non è il prezzo delle merci, non è il prezzo di questa borsa, non è il prezzo di questa cravatta che noi paghiamo, il vero prezzo che noi paghiamo per i nostri beni, per i nostri vestiti, per ciò che usiamo su di noi, non sono i soldi che abbiamo dato al posto di quella cosa, è la perdita della nostra libertà, è l'espropriazione del nostro lavoro, è la nostra disumanizzazione. Che avviene però non più come in passato, non più come le società autoritarie in maniera plateale, aperta, esplicita, avviene in maniera nascosta, implicita, travisata, travestita, ma l'essenzialità, la cosa più importante, lo squilibrio, il principio di gerarchia, il principio di autorità per cui c'è comunque qualcuno che decide al posto mio, e spesso non è neanche quello che io ho votato. Adesso l'Italia è particolarmente interessante perché in questo caso chi ha il potere reale con questo governo, quindi quello che la maggioranza degli italiani ha votato, contemporaneamente effettivamente è anche quello che detiene il potere economico maggiore, non solo perché è l'uomo più ricco, ma perché controlla il sistema mediatico italiano e controlla quindi uno dei settori della produzione di merci in cui non solo si è più ricchi, ma che strategicamente influenzano gli altri. La comunicazione, l'informazione, le televisioni, c'è solo il software che è importante quanto quel settore. C'è solo il software, l'hardware, ma il software diciamo più che altro di queste macchine. Questa è la cosa. Bene. Come diceva John Bernard Shaw, si può ingannare poche persone per un lungo periodo di tempo o molte persone per un lungo periodo di tempo. Non si può fare, non so come fare insieme le due cose. Dipende da cosa si intende per lungo periodo di tempo. Per alcuni di noi il periodo di tempo in cui ci hanno ingannato è stato da comunque troppo lungo, però insomma funziona fino a un certo punto. Prova ne sia che la sovversione non è finita, con l'avvento dei regimi democratici. La democrazia, che è il più efficace sistema di contenimento della società, la democrazia non è il governo del popolo, voi lo sapete benissimo, meglio di me. La democrazia è uno dei sistemi con i quali, cioè, certamente è 50 volte meglio che non avere il re, su questo siamo tutti d'accordo, non voglio dire, però da un punto di vista sostanziale la democrazia rappresentativa non è che se uno va ogni 4 anni, va e mette una sfera dell'una, questo cambia un cazzo, perché all'interno di quel sistema lì i gruppi dirigenti, economici, politici si organizzano comunque in modo tale da fare in modo che... Allora, tutto questo mi era necessario, questo breve esposto storico, per dirvi che all'interno dei movimenti di sovversione e di ribellione, soprattutto dell'ultimo secolo, del Novecento, cioè, questi movimenti sono stati in parte un laboratorio di strategie e dispositivi di comunicazione ricchissimo, ricchissimo. Io voglio approfondire in modo particolare uno di questi dispositivi o un insieme di questi dispositivi che vanno sotto il nome di Subvertising Fake e Multiple or Collective Name. Quindi nomi collettivi o multipli, falsi, subvertising è più difficile da tradurre perché è una modificazione dell'inglese advertising, la advertising è la pubblicità, però è un advertising sovversivo, quindi è un modo di comunicazione che prende a prestito l'involucro delle cose che sembrano pubblicità ma non sono pubblicità, perché non tendono a venderci nessuna merce, ma tendono al contrario a mettere a nudo, a rendere espliciti una serie di rapporti che invece sono impliciti. Tutto ciò ha evidentemente a che fare con la comunicazione, sia pure in senso, mi rendo conto, lato, ma questo è il corso che vi capita quest'anno, quindi questo vi dovete fare. La sua anche sono aperto a tutte le critiche e a tutte le messe in discussione di questa cosa, ma appunto di partenza ci vuole. Allora, adesso io vi lascio 5 minuti di pausa perché io ho la gola secca, voi sarete pure stufi, non ne potete già più. E ci sono 5 metri, questo è l'orario. Quindi...